Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, questa settimana vi portiamo in Sardegna, per la precisione in provincia di Nuoro. Valeria ha intervistato il sindaco di Orosei, Nino Canzano, che giustamente parte dalla descrizione di questo gioiello. Lo descriverei come una sorta di oasi di verde, perché Orosei ha questa caratteristica, è una zona in cui la vegetazione, la natura e tutto il resto è molto molto sviluppata, con caratteristiche particolari anche rispetto al retroterra, che ha un tipo di cosa differente. Noi abbiamo questo verdeggiare dei nostri boschi, delle nostre pinette, che va fino a confondersi con la riva del mare, che lo rende comunque un territorio particolarmente rilassante, ecco, usare questo termine dal punto di vista della visivo. Parliamo del mare, perché per la Sardegna è imprescindibile. Ci sono dei punti poco dopo Orosei, diciamo nel Golfo, che sono veramente spettacolari. Anche lì ci sono delle località di cui ci si può veramente innamorare. Teniamo conto che il nostro territorio è diviso quasi in due parti. C'è una parte di piccole cale di sabbia fine e c'è poi la Marina di Orosei, che invece è una grandissima distesa, una spiaggia lunghissima, che ha un tipo di vegetazione di sabbia differente. Noi abbiamo dei gioielli su questo territorio. Vide Rosa in particolare, credo conosciuta da tutti, è una oasi protetta che grazie al lavoro di foresta è rimasta intatta e migliorata negli anni. È un sito in cui abbiamo studiato l'idea di un accesso limitato, contingentato, proprio per preservarne queste caratteristiche straordinarie. Sono 5 piccole calette che possono ricevere fino a un massimo di 1000 persone, non di più, proprio per salvaguardarne queste caratteristiche straordinarie che ha. Però abbiamo anche siti come Cala Ginestro, di libera fruizione, che ugualmente, avendo le pinette quasi sulla riva del mare, hanno caratteristiche particolari. L'acqua è molto bassa, la sabbia è fina, ha i colori del corallo, è stato di un vero, a volte si abusa, ma è davvero un paradiso terrestre. Ecco, lei diceva la Vide Rosa è molto conosciuta, però io vorrei invitarla a raccontarci meglio come si fa per accedervi, perché bisogna venire a prendere un biglietto, quindi diciamo bisogna impegnarsi un po'. Devo dire che poi vale molto più che la pena, perché è un posto indimenticabile, è veramente selvaggio, ma è di una bellezza che riempie gli occhi. Sì, questo senz'altro. Noi abbiamo previsto, tanto è stato in concessione a un gruppo di ragazzi in cooperativa perché ne gestissero gli accessi e anche la manutenzione per le esigenze dei bagnanti. Esistono dei siti su cui si può prenotare il biglietto, esiste la prenotazione, oppure si può semplicemente venire e acquistarlo nei vari siti in cui abbiamo previsto la vendita, o direttamente sul luogo all'entrata, oppure tramite il consorzio turistico o anche altri soggetti a cui abbiamo dato questa concessione. Il problema è questo, che conviene sempre prenotarsi, perché essendo un numero limitato di persone che possono accedere, si corre il rischio di non poter entrare. Per arrivare alle spiagge bisogna percorrere una strada realizzata dall'ente foreste che praticamente costeggia lo splendido bosco che fa da contorno. Ci vuole circa un quarto d'ora, quindi il preludio alla visione delle spiagge è molto interessante, molto bello, e soprattutto perché sono stati conservati per esempio i ginepri, che sono preponderanti all'interno di questa oasi e che insieme ad altre piante fanno un contorno straordinario. All'interno vi è anche un punto trigonometrico decisamente spettacolare: se si ha la voglia di salire fin su si vede tutto il Golfo di Orosei. Ed è veramente una vista che vale da solo il biglietto d'ingresso. E devo dire, non è neanche particolarmente oneroso. Oneroso, nel senso che siamo riusciti a trovare un certo equilibrio fra la necessità comunque di rendere produttivo questo, senza dover salassare eccessivamente i visitatori. Possiamo anche dirlo quanto si paga per entrare? Diciamo che una macchina con 4 persone dentro sono 16 euro, quindi comunque siamo nell'ordine. Assolutamente accessibile. Contenuto accessibile. Ecco, sì. E visto che stiamo parlando di costi, Possiamo dare qualche indicazione di che tipo di zona è la Sardegna? Perché a volte quando si parla di Sardegna, diciamo, si pensa sempre a dei posti che non sono propriamente economici o comunque accessibili per tutti. Beh, allora, noi siamo, diciamo, entriamo in quella che possiamo considerare una fascia media, nel senso che siamo una località appetibile, ma senz'altro non siamo l'elite come può essere la Costa Smeralda. Questo al di là del valore della zona, che noi riteniamo sia importantissimo anche per la nostra. Conseguentemente anche i prezzi sono, come dire, regolati su una base media. Possono essere considerati mediamente bassi per una attività turistica in riva al mare e soprattutto perché siamo in Sardegna. Non dimentichiamoci, la Sardegna è un valore aggiunto di per sé in qualunque località ci si trova. Il costo, per esempio, delle strutture alberghiere è sufficientemente contenuto rispetto alla parte alta, la Gallura, che ha prezzi molto molto più elevati. Quindi una vacanza qui non ha dei costi eccessivi. Naturalmente a tutto questo, escludendo l'annoso problema dei trasporti, che purtroppo non possiamo intervenire noi né come amministrazione comunale, né regionale, né altro. Certo. Senta, Sindaco, oltre ovviamente al mare, che è la prima delle attrattive, ci sono poi delle altre possibilità? Penso a famiglie con bambini che magari non passano proprio tutta la giornata in spiaggia, o anche ragazzi un po' più grandi. Ci sono delle strutture ricettive anche adatte a diverse età? Sì, ci sono tanto, diciamo che una delle caratteristiche è l'offerta molto varia che abbiamo, quindi per ogni tipo di clientela. Non è particolarmente una clientela, come dire, da discoteca, ecco, noi non abbiamo questa caratteristica, nel senso che non abbiamo locali particolari per questo. Però sarebbe una cosa bellissima, che inviterei tutti quanti quelli che vengono a Rosei. Abbiamo un centro storico straordinario per bellezza e per estensione. È stato conservato in maniera veramente accurata ed è un piacere goderlo, perché è il vero e proprio centro servizi del nostro paese. Poi, per chi ama invece altre cose come l'archeologia, qui esiste un parco archeologico che comprende ben 17 siti nuragici e similari, che può essere una valida alternativa per chi, come dire, ha bisogno di staccare qualche giorno dal mare. È una cosa importantissima anche questo. Tenga conto che poi siamo anche una zona che ha delle zone umide spettacolari, abbiamo degli stagni, abbiamo il fiume, quindi la possibilità di fare attività sportiva, penso la canoa, ma ce ne sono tante altre, è facilissima da realizzare. Se lei dovesse dare un messaggio a chi sta scegliendo di venire in Sardegna, o chi sceglierà anche nei prossimi mesi, perché poi la Sardegna è molto bella anche per esempio all'inizio dell'autunno, fine settembre, ottobre, sono degli ottimi periodi per venire a farsi l'ultima coda di mare, no? L'ultima coda dell'estate. Che cosa direbbe? Beh, direi che intanto sono stati delle persone molto attente, hanno fatto una delle scelte più belle che potessero fare nella loro vita, di venire in Sardegna, ma soprattutto di venire nel nostro territorio. Lei ha parlato di settembre e maggio, effettivamente sono dei periodi meravigliosi, fra l'altro periodi in cui si concentra quella serie di feste popolari legate alla profonda religiosità dei nostri territori, che, come dire, è un'offerta alternativa, nel senso che noi abbiamo tantissime feste di grandissima importanza. È un paese che ha la bellezza di 21 chiese aperte, quindi, come dire, c'è una religiosità diffusa e importante. Possediamo un piccolissimo museo che è veramente un gioiellino, credo che sia unico al mondo, abbiamo un museo dei teatrini che vale la pena di goderlo, ma io credo che il sistema generale Rosei possa essere la carta vincente, cioè siamo in grado di offrire un'offerta turistica veramente diversificata e, come si usa dire oggi, con calma e tranquillità, godendosela pieno in ogni suo frangente. Calendario di iniziative in questo 2017 ricco per Rosei come per tutta la Sardegna, dove tra l'altro c'è una segnalazione importante da fare in questo 2017. segna quest'anno l'addio alla vecchia continuità territoriale per e da Roma e Milano. Ad ottobre arriverà la nuova fino al 2021 con molte correzioni rispetto al vecchio contratto. Quindi ci sono prezzi scontati per residenti e per non residenti, più posti, più voli e controlli stringenti sulle compagnie aeree che vinceranno la gara. Questa è una cosa molto interessante perché ci sarà un bel risparmio. Il risparmio sulle attuali tariffe sarà di 3 euro per i sardi, ma sarà intorno ai 9 euro per gli altri. Allora, vediamo nello specifico come funziona. È prevista una tariffa agevolata massima unica per 10 mesi l'anno, dal 1 settembre al 30 giugno, che è pari a 37 euro per le rotte verso Roma Fiumicino e a 46 euro per Milano Linate, mentre per 2 mesi estivi, dal 1 luglio al 31 agosto, i residenti sardi continueranno ad avere le stesse tariffe, mentre per gli altri sarà applicata una tariffa non agevolata, massima però a 70 euro per le rotte verso Roma Fiumicino e a 80 euro per Milano Linate. Dunque, la Sardegna sempre più vicina e sempre più raggiungibile. Le nostre segnalazioni però non sono finite. Dalla Sardegna ci spostiamo in Liguria, dove sono gettonatissime le 5 terre. Il parco nazionale ha adottato, al partire dal 2001, una carta dei servizi. Il ricavato della card è diretto in via prioritaria al mantenimento e al recupero del territorio e ovviamente anche a consentire i servizi di mobilità all'interno di un territorio che non è proprio un territorio facilissimo. La carta è disponibile in 2 versioni, la Trekking Card e la 5 Terre Treno MS Card. È un modo più veloce e un po' più economico per muoversi in treno da una località all'altra. Le località sono tutte bellissime. Puntata dedicata al mare che si conclude qui. Alla prossima.